La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, come ogni sabato a quest'ora, a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea qui su Radio 24. Io sono Franco D'Assisi e questa è l'ora di cinema nella quale andremo a raccontarvi un po' tutto quello che si è mosso, e si è mossa parecchia roba durante questa settimana per quanto concerne soprattutto le sale. Ci sono diversi film, tre film di cui parleremo, tra l'altro tutti con ospiti che sono arrivati nelle sale cinematografiche, ma contemporaneamente sono diventate un po' sale cinematografiche anche le arene estive, le arene all'aperto, che stanno ospitando anche molti di questi nuovi film. Noi avremo ospite fra poco Massimo Ghini, che ci racconterà il suo ruolo di procuratore calcistico nella Volta Buona di Vincenzo Marra. Avremo ancora prima Aurelio Grimaldi, che ci racconterà come ha girato Il delitto Mattarella, il film che si pone nel filone appunto del cinema antimafia, dell'inchiesta civile in queste ore. Però prima di tutto vogliamo parlare di un altro momento storico del nostro paese, quello in cui l'omosessualità ha deciso in qualche modo, il mondo dell'omosessualità, di venire fuori, di opporsi a un mondo, un establishment anche medico, che sostanzialmente la riteneva una malattia. Uno degli fondatori, dei fautori di questo movimento fu Mario Mieli, tragicamente poi morto suicida ad appena 30 anni. A questo personaggio dedica un film che si intitola Gli anni amari, Andrea Adriatico. Allora noi abbiamo fatto un salto un po' indietro nel tempo in una trasmissione televisiva nella quale Mario Mieli spiegava così, lo sentirete dalla sua viva voce, prima di tutto il perché del suo travestirsi, del suo voler sembrare donna. Sentiamo. Mi travesto perché mi piace, questo è il motivo, cioè mi sento molto spesso bene vestito da donna, quindi la risposta è molto semplice. E poi anche, se vuoi, con un tantino di spirito polemico, in quanto intendo oppormi a quella normalità, secondo me demenziale, che vuole gli uomini necessariamente vestiti coi pantaloni e le donne, ecco, le donne possono travestirsi da uomo, ma l'uomo non può travestirsi da donna. Bisognerebbe interrogarsi il perché di questa contraddizione. Sulle note di Polisex di Ivan Cattaneo, canzone che fa parte della colonna sonora e che è stata anche un po' uno dei punti di riferimento proprio di quel movimento, noi salutiamo Boris Sollazzo. Ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Boris, prima di parlare di questo Gli anni amari, che a mio modo di vedere è un film molto importante per la nostra cinematografia e spiegheremo perché, ascoltiamo cosa ci ha detto Andrea Adriatico proprio sulle motivazioni che l'hanno portato a girare questo film. Andrea Adriatico, regista degli anni amari. Mario Mieli è stato il testimone di un momento storico particolarissimo, l'Italia degli anni 70, in particolare Milano, in cui la trasformazione sociale, l'idea di una nuova libertà sessuale, le possibilità intrecciatesi intorno al movimento del 77 hanno provato a restituire anche un immaginario su quello che poteva essere la pubblicazione, l'edizione di idee assolutamente controcorrenti, come Mario Mieli ha fatto pubblicando da Einaudi Elementi di critica omosessuale, ancora oggi uno dei libri chiave per comprendere le questioni di genere in Italia. Mario Mieli è stato precursore su moltissime questioni, è uno dei protagonisti del movimento omosessuale italiano che si piazza davanti al Casinò di Sanremo nel 72 a protestare contro gli psichiatri che vogliono ancora una volta ribadire l'ospedalizzazione della sessualità. Ma è anche il personaggio che nell'83, proprio alle porte della AIDS, nello stesso mese in cui in Italia per la prima volta appare un articolo su Frigidaire dedicato al cancer gay, al cancro gay, come verrà definito l'AIDS per molti anni, si spegne in un suicidio rituale che è la testimonianza della fine di un'epoca. Il film Gli anni amari racconta tutto questo, anni che sono stati contemporaneamente straordinari e anche carichi di amarezze per la sconfitta di quell'idea di libertà legata a un diritto primario che nessun altro movimento ha poi recuperato, che è il diritto alla felicità. Spero possiate vedere questo film. Boris, allora, così Andrea Adriatico, tra l'altro in un evidente campo di cicale, perché ammiro molto il luogo, non so dove sia il luogo dove ci ha rilasciato questa clip audio, però scherzi a parte, Boris, Gli anni amari è un film molto importante che va, secondo me, al di là di alcuni suoi limiti, forse anche di impianto produttivo, quando affronti l'epoca, gli anni 70, ormai sono un film in costume, ovviamente, e ti manca un po' il respiro delle scene di massa, della grandezza, della larghezza, eccetera, magari un po'... Questo si sente, non si sente negli interni, che sono molto ben curati. Ricordiamo nel cast anche Antonio Catania, Sandra Ceccarelli, un cast importante. Il protagonista è Nicola Di Benedetto, che è mimetico rispetto a quello che era Mario Mieli, forse con un po' di enfasi di troppo rispetto alla gestualità e al modo di porre le battute. Però al di là di questi limiti, se vogliamo, Boris, Gli animali, dicevo, è un film importante perché per la prima volta affronta quel momento storico, il momento di un coming out proprio di movimento, di genere, e anche molto molto politico, il movimento fuori, eccetera, di cui Mario Mieli era stato l'iniziatore, uno dei fautori. Poteva essere in qualche modo un po' il Milk italiano, e rimane comunque un film che non c'era, ed è per questo importante vedere. Intanto, secondo me, Adriatico ha fatto benissimo, perché il suo è un film sulla libertà di essere cicale, cioè di essere se stessi e anche di bruciare in fretta, come succede alla cicala e come è successo a Mario Mieli. Un film su Mario Mieli è fondamentale perché Mario Mieli è stato un simbolo, è stato un'icona, è stato un intellettuale straordinario, un uomo che ha cambiato il nostro modo di pensare, il nostro modo di vedere le cose, e questo, secondo me, il film ha il merito di raccontarcelo, di mostrarcelo e di dirci anche come ha fatto e perché. Lo ha fatto perché ha avuto la capacità di raccontare la libertà come nessuno aveva fatto fino ad allora e nessuno è riuscito a fare dopo a ragione Adriatico, ci si è dimenticati di manifestare per ciò che era la cosa più importante, cioè la felicità. Si è pensato a tanto, all'economia, alle conseguenze dell'infelicità, ma alla felicità non ci ha pensato più nessuno. Mieli invece ci diceva che se una cosa ci andava di farla, bisognava farla, se non dava fastidio a nessuno, se non era illecita. Il film ha sì qualche problema, probabilmente quell'enfasi che in fondo, nonostante avesse vinto l'Oscar, aveva anche Sean Penn in Milk. La rappresentazione di un certo mondo è sempre molto complicata nel cinema, lo abbiamo visto dal Vizietto in poi. Di Benedetto, secondo me, è molto bravo nell'incarnare Mario Mieli nel momento in cui ne replica la gestualità, lo sguardo meno quando si lascia andare un'espressività eccessiva, come dicevi tu, però la bontà della scrittura e della messa in scena tu la vedi invece su tutto ciò che Mario Mieli tocca, famiglia, amici, movimento, e su tutto ciò che apparentemente è comprimario ma è realmente protagonista, appunto famiglia, movimento, amici, e lo capisci benissimo per esempio in due attori straordinari, e basterebbe solo questo per vedere Gli anni amari, come Antonio Catania e Sandra Ceccarelli. Quindi, come hai detto tu, non sarà un film perfetto, ma è un film che va visto assolutamente. Assolutamente promosso comunque nel suo complesso, pur con queste sfaccettature, Gli anni amari di Andrea Adriatico. Boris, rimani con noi perché fra un po' ti ritiriamo fuori dal frigo per parlare di Dads, un film sui papà di Bryce Dallas Howard, la figlia di Ron Howard, ed è veramente una bella scoperta su Apple TV. Fra poco invece sarà con noi Aurelio Grimaldi per raccontarci Il delitto Mattarella. Ora viabilità. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Rosa Purpurea. Abbiamo ucciso il vostro compare Aldo Moro. I prossimi siete voi. Se un solo mio assessore all'agricoltura o di qualunque altro ambito ha commesso una sola irregolarità, io ne pretenderò le immediate dimissioni. E lui, ne sono certa. E così parlava Piersanti Mattarella, il presidente della regione Sicilia, ucciso dalla mafia il giorno dell'Epifania del 1980. Così ne parla il film che è arrivato nelle sale cinematografiche italiane, sta girando anche in alcune arene all'aperto, che Aurelio Grimaldi ha diretto proprio sul caso Mattarella. L'ha intitolato Il delitto Mattarella, un titolo esplicativo che ci riporta a un cinema, diciamo, fortemente civile, con una connotazione antimafia forte, come è stato negli anni più importanti del cinema italiano e come continua ad essere, vista anche, per esempio, il successo del Traditore. Cioè, visto che la tematica, in qualche modo, è una tematica che ancora il pubblico sembra percepire in maniera interessata. Il Delitto Mattarella è uno dei tanti, purtroppo troppi, però inesplorati dal cinema, delitti di mafia, ma era un nodo che andava affrontato, perché il Delitto Mattarella è stata la mannaia, soprattutto a livello siciliano, ma anche a livello nazionale, subito dopo il caso Moro, sulla possibilità di un dialogo politico fra la sinistra, il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. Un mondo italiano politico che poteva andare in un'altra direzione e non ci è andato, anche con l'ausilio di componenti che non erano propriamente tipicamente mafiose. Qui ci sono gli ambienti neofascisti, per esempio, addirittura si intravede la presenza di Gladio. In tutto questo Aurelio Grimaldi fa un lavoro, a mio modo di vedere, molto interessante, perché in un impianto molto classico cinematografico, molto asciutto, dove non si enfatizza nulla, dove non c'è bisogno di musiche quando le musiche non devono dire nulla, e neanche in maniera del tutto cronologica, regalandoci un prima e un dopo più che un durante, Aurelio Grimaldi, dicevo, però mette insieme gli elementi con una perizia d'indagine veramente importante, e cinematograficamente ti tiene attaccato alla figura di quest'uomo probo del dialogo, uomo saggio, che però non aveva spazio, non aveva più abbastanza spazio, perché piano piano intorno a lui le varie componenti, Salvo Lima, Ciancimino e tutti i nomi che vengono fatti, si stavano stringendo per tornare a un altro modo di fare politica, che era quello che Mattarella avversava. Tutto questo il Delitto Mattarella riesce a ricordarcelo, a ricordarci anche quanto il cinema italiano è stato grande quando ha affrontato determinate tematiche in un certo modo. Noi siamo in collegamento con Aurelio Grimaldi, che saluto. Ciao Aurelio. Buongiorno a tutti, grazie. Benvenuto alla Rosa Purpurea. Allora, raccontaci un po' cosa vuoi portare all'attenzione del pubblico italiano di oggi, cosa può raccontare il Delitto Mattarella? Sì, hai ragione, questo è un film tra virgolette all'antica, nel senso che il regista si deve mettere da parte e lasciare spazio ai suoi personaggi, agli eventi vissuti. È chiaro che il regista, in questo caso sono stato anche lo sceneggiatore, come mio solito, ho dovuto fare un'operazione di selezione dei fatti, ed è lì che si vede la presenza mia e la strategia e il ragionamento. Ma il protagonista è Piersanti Mattarella, nonostante, come hai visto, è un film totalmente corale e ci sono tanti personaggi che, come dire, indirizzano la loro freccia e il loro vettore su questa grande figura. È un film che si augura di dare a Piersanti quello che finora non gli è stato dato, perché Piersanti Mattarella ha un cognome che tutti gli italiani conoscono e assolutamente rispettano, ma quando è accostato al nome di Piersanti, anche per la grande discrezione del Presidente della Repubblica, si fa totale fatica a mettere a fuoco. È un ricordo molto vago, molto lontano, e persino il Presidente del Consiglio Conte, alla sua prima uscita in Parlamento, quando chiese la fiducia del Conte 1, fece un omaggio al presidente Sergio Mattarella nominando questo congiunto, ma senza ricordarsi il nome o che fosse un fratello. E quindi speriamo che il cinema faccia quest'opera di memoria. Piersanti Mattarella, a mio avviso, quando sarà più conosciuto, è un essere umano di quelli che, secondo me, per stranezze genetiche, quando si mettono in testa una cosa, a tutti i costi la vogliono fare. Era un politico di quelli, di talento, fuori discussione, se n'era accorto Aldo Moro, che lo scelse come suo pupillo e l'aveva proposto alla vice segreteria nazionale del partito, e non solo per incarichi siciliani. Sono di quei soggetti che non li puoi tenere fermi, che devono fare, devono agire, devono cambiare le cose, e il suo progetto umanistico e politico era sicuramente molto avanti negli anni. Io lo definirei persino un progetto temerario, ma alla fine, come dico, l'hanno ucciso, ma alla fine è lui quello che ha vinto, e non certo i suoi nemici della DC, di Cosa Nostra, dei neofascisti, di Gladio e di pezzi dei servizi segreti. Tanti ingredienti che tu semini appunto durante il film, alla fine manca il risultato finale, cioè chi è stato a uccidere davvero Piersanti Mattarella. È incredibile quello che viene fuori, cioè che nonostante Irma Mattarella l'abbia riconosciuto due volte in sedi ufficiali, in tribunale, non sia stato mai condannato l'autore materiale di questo delitto. Però volevo chiederti, Aurelio, qualcosa sul, sul come hai lavorato al cast, perché hai fatto un lavoro, diciamo, di sottrazione sulla figura di Piersanti Mattarella, interpretato magnificamente, secondo me, da David Coco, e invece nomi più celebri, più famosi, Leo Gullotta, Tony Sperandeo, nelle figure di contorno, quelle appunto dei Ciancimino, dei Salvo Lima, di chi era l'avversario. Come hai scelto questo tipo di bilanciamento fra le componenti del cast? Io sono partito da una sorta di dogma. In questo film, che ha avuto tante difficoltà finanziarie, giusto anche così, insomma, non si trattava di una tematica, come dire, facile facile, il mio dogma fu: io, se riesco a realizzare questo film, devono essere tutti attori siciliani. Ho sempre fatto delle garbate polemiche, anche affettuose, quando ho spesso ripetuto che Luca Zingaretti è un ottimo attore che stimo molto, ma io il ruolo di Montalbano l'avrei dato a un siciliano. Intendo dire che per raccontare una storia così connotata al territorio, dove anche il linguaggio, l'accento, le tonalità, persino le movenze sono diverse tra un friulano e un siciliano, è un peccato rivolgersi ad attori famosi chiedendo di adattarsi a fare siciliani. Alcuni ci riescono di più, alcuni ci riescono meno, ma abbiamo la fortuna che in ogni regione d'Italia ci sono bravissimi attori, è una storia siciliana che si è raccontata da siciliani. In questo è stato un cast complesso e difficile, perché tanti tanti ruoli, per cui su alcuni ruoli alcuni non erano disponibili, poi abbiamo dovuto cambiare le date. Donatella Finocchiaro, cui io tenevo moltissimo per fare la moglie di Piersanti Mattarella, e aveva degli impegni col film di Emma Dante, e l'abbiamo dovuto spostare. Alla fine resta il fatto che credo che questo bel gruppone di attori siciliani veramente bravi, penso che questo sia un dato molto condivisibile, me lo auguro lo sia anche per gli spettatori, hanno dato un contributo molto molto forte a una storia che non può che essere siciliana, che ha valenza nazionale, non solo nazionale, ma i fatti avvengono in Sicilia. Aurelio, ti chiedo un'ultima cosa, questa primavera antimafia, che poi fu, come dire, legata alla figura del sindaco Lelu Orlando dopo il caso Mattarella negli anni successivi, secondo te è una primavera che brucia ancora? Cioè, sentire, vedere questo film può accendere ancora quella passione antimafia che sembrava a un certo punto avere coinvolto completamente tanto Palermo quanto la Sicilia? Guarda, quando sono arrivato a Palermo erano i primi anni Ottanta, io appunto era il periodo proprio di Mattarella, io ero, mi definivo un suddito di Maria Teresa d'Austria che in Sicilia non voleva assolutamente stare a viverci. La Sicilia di quegli anni era una Sicilia diversissima, terribile da molti punti di vista, non condividevo l'aggettivo che poi usò Sciascia di regione, la Sicilia irredimibile, vale a dire senza speranza, perché io non ci credo, la storia non è mai senza speranza, cammina sempre. Però certo era una Sicilia difficilissima. Dopo l'omicidio Mattarella ci fu una restaurazione totale, ed è la restaurazione degli andreottiani, di Salvo Lima e di Giulio Andreotti. Solo anni e anni dopo avremo l'omicidio di Salvo Lima, già inquisito da parte della stessa Cosa Nostra perché non aveva rispettato la promessa di far decadere in Cassazione il maxi processo, e la condanna, ma poi prescritto, di Giulio Andreotti, come racconto anche nel film, per concorso con l'associazione mafiosa. La Sicilia è cambiata molto, la primavera di Palermo di Orlando è stato un momento veramente bello e importante. Sicuramente Palermo ha tante problematiche, ma è una città viva, vivace, con luce e ombre, ma secondo me in questa fase le luci sono molte più delle ombre. Grazie allora Aurelio Grimaldi, ricordiamo, nelle sale, nelle arene estive c'è Il delitto Mattarella, anzi Aurelio Grimaldi sarà proprio a Milano, all'Arena Milano Est, per presentare Il delitto Mattarella l'8 luglio. Grazie Aurelio, ci vediamo e in bocca al lupo per il percorso di questo film. Grazie, quindi do appuntamento a tutti i milanesi all'8 luglio. Grazie ancora. E quindi Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi, noi giochiamo insieme con la prima traccia del nostro film misterioso di oggi. Dove è andato chi? Già, e lui rideva di noi alla radio, si divertiva come un matto. No, guarda che ero io a ridere. Abbiamo vinto. Grazie, grazie. Anche loro hanno vinto. No. E allora, se avete già individuato il film, che è un film, diciamo, di quelli generazionali, cult generazionali, allora scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, due Blu-ray, edizione 4K tra l'altro, quindi in altissima definizione, vi aspettano, più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Adesso, linea alla regia, fra poco torniamo insieme, sarà con noi Massimo Ghini per raccontarci il suo ruolo di procuratore e anche un po' arruffone in il film La Volta Buona di Vincenzo Marra, fra poco. Enea, raccontato da Virgilio, era un profugo che fondò Roma. E se è vero che la tradizione è spesso un'innovazione riuscita, un italiano a volte è uno straniero che ce l'ha fatta. Oggi i nuovi italiani sono quelli che vincono Sanremo o quelli che scendono in campo con la maglia azzurra. Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 21 con I figli di Enea, storie di nuovi italiani. Naturalmente qui su Radio 24. I campioni dello sport, le loro storie e gli autori che le hanno raccontate. Sono Dario Ricci e a luglio vi aspetto ogni domenica alle 16.30 e in podcast a Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport, per leggere insieme i grandi libri della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24. La rosa purpurea. Sono più di 600 minuti che non prende un gol, stiamo in zona record. È un affare, credimi. Ma l'hai visto bene i video che ti ho mandato? Quello è un fenomeno. Sui video può essere tutto e può essere niente. Che mi ha fatto venire a fare? Fidati, è l'occasione della vita. Ma tu me lo devi far vedere sul campo di calcio, no che me lo presenti qui al semaforo? Te mi farai una statua d'oro, te lo dico io, una statua d'oro mi farai, lo vedrai. Le ambizioni, i sogni e le illusioni del mondo del calcio si concretizzano dentro questa storia, La Volta Buona, diretta da Vincenzo Marra, con Massimo Ghini protagonista, insieme a Ramiro Garcia, Max Tortora e tanti altri, con una storia anche amara, che parte proprio da un procuratore, un talent scout più che altro, del calcio dei più piccoli, Bartolomeo, che pizzica, bazzica i campi di calcio alla ricerca di una stella magari ancora grezza, un fiore che deve ancora sbocciare ma che prima o poi potrebbe valere tanti soldi, quei soldi che magari poi Bartolomeo sperpera nelle sale da gioco, alle slot machine. Un'occasione, lo sanno i procuratori, gli osservatori del calcio, che capita tante volte, solo una volta nella vita, e questa occasione, questa volta buona, si manifesta, sembrerebbe manifestarsi con le forme anche paffutelle di un ragazzino di Montevideo, Pablito. Un giorno Bartolomeo riceve una chiamata da un amico, dice: vieni qui perché c'è forse quello che stai cercando e potrebbe essere davvero la volta buona. Però fra il dire e il fare, soprattutto il calciatore, c'è di mezzo più dell'oceano che divide l'Europa dal Sud America, e c'è anche il tema degli affetti, della sensibilità di un uomo come Bartolomeo, che forse vede in quel ragazzino qualcosa di più di quello che inizialmente d'impatto sarebbe solo un'enorme possibilità economica. E allora di questo noi vogliamo parlare, di questo film particolare, perché il cinema italiano, quando incontra il calcio, può fare capolavori. Pensate all'Uomo in Più, per esempio, ma a volte magari non riesce a trovare un feeling. Il calcio è uno dei temi e degli argomenti meno riprendibili al cinema, proprio perché è troppo pieno nei nostri occhi il gesto tecnico, troppo definito, troppo preciso per poter essere riprodotto. E in questo caso invece l'astuzia anche di Vincenzo Marra è quella di stare lontano dal gesto tecnico, invece di stare molto molto vicino alla vicenda umana. È con noi al telefono il protagonista di questo film, Massimo Ghini. Ciao Massimo e bentrovato alla Rosa Purpurea. Ciao a tutti. Ciao. Allora Massimo, questo Bartolomeo, un bel personaggio, era forse devo dire un personaggio di quelli belli, spessi, che fanno curriculum, mi viene a dire, fanno filmografia in qualche modo, anche in una filmografia ricca come la tua, però è uno di quei personaggi molto sfaccettati, penso che a un attore faccia sempre piacere incontrarli. Guarda, io in sintesi ti dico questo, che quando lessi il copione, che inizialmente si intitolava Il procuratore, e pensando alla cinematografia di Vincenzo Marra, insomma, che conoscevo, istintivamente ho pensato, prima di cominciare a leggere, cioè col copione in mano e il titolo davanti, che si trattasse di una storia legata al mondo, appunto, non so, della Camorra. Poi quando ho cominciato a leggere ho scoperto che innanzitutto lui era un procuratore di calcio, la cosa mi ha, devo dire, proprio intrigato e affascinato immediatamente, perché dentro poi c'è questa linea di condotta, questa narrazione che viene fatta, che guarda come una sorta di neorealismo a una situazione che è abbastanza davanti agli occhi di tutti, ma che tutti quanti rifiutano poi di poter riconoscere. Cioè l'immagine del calciatore di oggi è l'immagine del calciatore vincente, fidanzato con la subrettina, che vive tra Ibiza e quant'altro, pieno d'anellini, tatuaggi e cose varie. Io non voglio togliere nulla, perché sono giovani e hanno giustamente il diritto di fare quello che vogliono. Però spesso e volentieri il giornalismo su questo, secondo me, ha tratto delle considerazioni, o perlomeno, capito, ha dato spazio molto di più, questo non vale solo per il calcio, vale per la politica, vale per lo spettacolo, vale un po' tutto, a quello che è poi veramente la fase più vacua, no? più superficiale. In realtà quello che si tende a nascondere raccontando storie di calcio è la storia che raccontiamo noi, cioè che sotto c'è un sottobosco talmente, quasi una macelleria messicana, non so, un mercato delle vacche, in cui questi ragazzini vengono presi, spremuti, provati, riprovati, e purtroppo, come sappiamo, c'è una selezione naturale che ti porta poi a poter decidere per l'uno piuttosto che per l'altro. Voglio dire, nel complesso, il coraggio che ho trovato nel copione di Vincenzo Marra era quella non tanto di stare a raccontare il calcio in quanto tale, perché è un film dove il calcio, secondo me, la sua responsabilità non è raccontato nemmeno benissimo, ma questo perché non era negli interessi di Vincenzo. Cioè Vincenzo voleva raccontare attraverso la rappresentazione di quel mondo del calcio in realtà un percorso umano. Certo. Di uomini, di donne, di bambini, di anziani, di miseria, di povertà, di terzo mondo, e poi di un fatto umano di un uomo che comunque ho vissuto tutta la vita con un cinismo e una superficialità totali, e che forse anche crescendo e di fronte a questa storia lo tocca più di tante altre storie che ha finito, tira fuori un po' un lato umano. In questo senso, Massimo, la volta buona che si presenta davanti a Bartolomeo può essere la volta buona di un'umanità, cioè di cominciare a capire, ad avere uno spirito di umanità, che forse, appunto, come dicevi, in mezzo a questo cialtronismo, a questa cosa un po' da mostri della commedia all'italiana, era svanita. È la volta buona per riappropriarsi soprattutto di se stesso e di un equilibrio con se stesso. Ma sai, guarda, perdonami, io non è che contesto questo, però quando mi è stato chiesto cosa trovi, cosa hai trovato nel film di Vincenzo Marra, ho detto: guardate che Vincenzo Marra, secondo me, ha fatto un'operazione che è stata quella di guardare al passato per poi tradurlo nel presente. Cioè la commedia italiana che si fa ultimamente, io sono uno di questi colpevoli, perché questo è il lavoro che ci arriva a tutti, e magari potessimo sempre scegliere quello che ci piace di più o quello che potrebbe sembrare più soddisfacente. Il problema è che la commedia in quanto commedia ha perso quella forza che aveva la commedia all'italiana. La commedia all'italiana era una formula che abbiamo inventato, è un marchio, un logo che funziona quello, perché era una commedia che ti portava sempre alla fine a fare i conti con la tua coscienza. Tu ridevi, ma arrivava un momento, no? Sorpasso, all'ultima curva, quello piglia, boom, e va a finire sotto al campo. La grande guerra, tu stai 90 minuti a ridere con sordi e gasmo, e poi all'ultimo momento ti fucilano, no? Quello mite disnente, fassa de merda, te lo saresti mai aspettato che due antieroi come quelli poi diventano eroi? Ecco, quello ha creato un modo di fare cinema che noi abbiamo abilmente saputo perdere, per cui la commedia degli ultimi anni è un po' una minestrina riscaldata con queste difficoltà tutte giovanili che sono niente a confronto di quello che era il cinismo, la difficoltà, la miseria. Pensa ai mostri, no? Che crudeltà tale di rappresentare un mondo fatto di una cattiveria allucinante che diventava poi in realtà una denuncia. E pensa, quelli erano film considerati di serie B. Ecco, io quando ho letto il film di Marra, la prima cosa che gli dissi incontrandolo, dico: senti Vincenzo, mi ha fatto molto piacere, perché mi sembra un film di Vincenzoni scritto per Dino Risi. La commedia e qui c'è molta confusione e molta ignoranza, a 360 gradi, è un termine che è onnicomprensivo della vita di un essere umano, di esseri umani che passano attraverso momenti di grande felicità a momenti di disperazione e tristezza. Non è che per forza dici che sai fare la commedia, ride, te l'ho detto, vatti a vedere Il Sorpasso, poi dimmi se esci dal cinema ridendo. Certo. Questo film poi uno lo vede, può trovarci i suoi limiti, le sue cose, io non discuto in assoluto, però il plot della storia è fortissimo. Secondo me fossimo in un altro paese sinceramente più democratico del nostro, si poteva andare proprio ancora fino in fondo in quel tipo di schifo, perché alcune cose sono accennate, però sono vere. E comunque Massimo Ghini, protagonista della Volta Buona di Vincenzo Marra, in sala, questo è importante, quindi nelle sale cinematografiche e presto immagino anche in giro per le arene all'aperto. Grazie Massimo per essere stato con noi. Grazie a tutti quanti voi e buon lavoro. E giochiamo ancora insieme, dopo aver raccontato La Volta Buona di Vincenzo Marra, con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Entro un'ora partirà una spedizione di soccorso. Il vostro incarico è fornire un supporto aereo alla spedizione. Nella zona ci sono dei MiG e la situazione è molto tesa, e se sarà necessario dovrete rispondere al fuoco. E se avete individuato il film, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, la rosa purpura @radio24.it, il vostro nome, cognome, indirizzo e soprattutto il titolo del film. Ci sono due Blu-ray versione 4K in alta definizione che vi aspettano. Fra poco vi svegliamo tutto. Adesso linea alla viabilità. C'è un altro film di cui dobbiamo parlare con Boris Sollazzo, si intitola Deads, è su Apple TV. Fra poco. Cosa resterà di questa emergenza? Siamo davvero cambiati? Anche l'economia delle piccole cose guarda avanti. Tra conti da far quadrare e nuove abitudini da imparare. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato alle 7:15 qui su Radio 24 per ripartire insieme. Vi siete persi nella giungla dei libri e non sapete cosa scegliere? Niente paura, Radio 24 vi viene in soccorso con Il Cacciatore di Libri. Due scrittori e due romanzi per ogni puntata. Una chiacchierata informale per scoprire qualcosa in più sui personaggi e i loro autori. Sono Alessandra Tedesco, vi aspetto ogni sabato per parlare di libri. Siamo in onda ogni sabato alle 15:30, ma resta l'appuntamento per i mattinieri alle 6:30. Se avete nostalgia della versione serale, c'è sempre il podcast su radio24.it. Dad, I remember you were worried that you'd never be as good a dad as your own father. He was great. That's been absolutely my worry. If you could be a good dad, that is. Quarta parte della Rosa Purpurea, parliamo di un altro film, tornando allo streaming che ci ha fatto compagnia per tutta questa ampia e lunghissima parentesi della pandemia. Apple TV Plus, per dirla bene, ha caricato in questi giorni un film molto interessante e anche molto divertente che si intitola Dads in americano, in inglese, papà in italiano. È molto interessante questa cosa, perché per noi papà è una parola sola, sia al plurale che al singolare, invece dads ci dà la dimensione, quasi a voler dire ci sono tanti modi di essere papà, tante paternità, e tutte queste paternità. Bryce Dallas Howard, figlia di Ron Howard, che parla anche del suo rapporto col padre attraverso il fratello, mette a confronto tutta una serie di personaggi, di nomi veramente straordinari, da Will Smith a Judd Apatow, dai comici come Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel, a blogger, va anche oltre oceano. Insomma, è una carrellata di padri, tra l'altro con molta documentazione originale, alle prese con figli piccoli, alle prese con un tema come quello della genitorialità, che un tempo sembrava appannaggio solo delle madri e che invece i padri stanno un po' recuperando, anche recuperando le difficoltà enormi, ma anche le grandi soddisfazioni. Boris Sollazzo, lo ritroviamo per raccontarci questo documentario, che è un gioiellino, Boris, perché intanto ha un ritmo strepitoso, è molto molto divertente anche per merito dei bambini, e devo dire che qualsiasi padre di oggi si riconosce nelle parole e nelle vicende, direi anche nelle disavventure a volte, che vengono raccontate dai protagonisti del film. Beh, Beh, io ho un figlio di un anno e quattro mesi e ho passato tutto il tempo del documentario a ridere e piangere, spesso contemporaneamente, come succede anche a molti dei padri che raccontano. Hai fatto bene a sottolineare il valore semantico del titolo. Ne aggiungo un'altra di interpretazione, anche contro chi ha criticato il film per dare una visione solo positiva della figura del padre. Lei ha raccontato i dads, non i fathers, ha raccontato quelli che si meritano di essere chiamati papà in maniera affettuosa, perché c'è anche questo aspetto, insomma, i papà, non i padri, e non chi è biologicamente tuo padre. È la lettera d'amore di una figlia innamorata, poteva farlo solo una figlia verso il proprio padre, con il pretesto di dichiarare il suo amore totale verso Ron Howard e anche verso gli altri padri della sua famiglia. Bryce Dallas Howard allarga il suo, la sua visione, e in questo mi ricorda in alcuni momenti lo spirito del documentario sui bambini di Walter Veltroni. Allarga la sua visione a tanti padri illustri e sconosciuti, e la bellezza è però raccontare la figura moderna del padre, quel padre che può arrivare ad essere padre a tempo pieno, quella reale parità genitoriale che si sta creando in questo momento. Ripeto, ho un bambino di un anno e quattro mesi, ho vissuto anche l'esperienza di stare a lungo da solo con il mio bambino, e forse nessuno ha mai saputo raccontare questa parte, la fragilità che sopravviene nel momento in cui chi ha avuto solo un tipo di modello virile si ritrova invece a fare i conti con un altro lato di sé, ed è importantissimo che sia stata una donna a raccontarlo. Inoltre è una comedy straordinaria, perché ci sono degli attori straordinari, degli stand-up comedian straordinari che per non piangere ci fanno ridere. C'è una battuta meravigliosa: noi ci dimentichiamo sempre che le madri sono Batman e noi non siamo nemmeno Robin, siamo una ruota della Batmobile. E anche questo però viene poi smentito, viene raccontato anche una figura di padre che diventa fondamentale nell'educazione. C'era un difetto di rappresentazione in tutto questo, non veniva raccontato. Ecco, con gli anni amari dicevamo che c'era un difetto di rappresentazione per un certo mondo. E con Bryce Dallas Howard effettivamente abbiamo la stessa situazione, c'era un difetto di rappresentatività sui genitori maschi, e lei lo sana con una lettera d'amore agli eroi, ai nuovi eroi che fanno semplicemente una cosa normale che le nostre madri hanno fatto per una vita e che adesso cominciamo a fare tutti. Il risultato è davvero che non smetterete di piangere e di ridere, esattamente come fanno molti dei padri che magari per vergognarsi delle lacrime fanno una battuta, un colpo di reni. È veramente un documentario straordinario. Ed è una delle cose più belle che può darti il cinema, quella di piangere e di ridere. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E proseguiamo con la nostra trasmissione, perché dobbiamo tornare indietro di 7 giorni e farvi riascoltare il nostro film misterioso della settimana scorsa. Quando il corpo del marito, alla usanza greca, fu deposto nella cripta, la vedova, così onesta e fedele, non se ne volle più andare. Notte e giorno vegliava e piangeva. E si trattava di Satyricon di Federico Fellini. Lo hanno indovinato per primi, riceveranno questa copia di questa nuova edizione restaurata, Giovanni De Benedictis di Bari e Carmelo Bontempo di Tre Mestieri Etneo, provincia di Catania. Allora, due nostri ascoltatori del sud per questo Fellini in nuova edizione che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, nella Roma di Nerone due giovani scioperati in colpo e ascilto passano attraverso avventure di dissolutezze di ogni genere, inseguendo il bel gitone del quale si contendono i favori. Tra i personaggi che incontrano vi sono l'attore Vernacchio, l'ermafrodito, il minotauro, il liberto archito Trimalcione, il poeta Eumolpo, in una storia di iniziazione dall'esito tragico. Prendendo spunto dall'opera di Petronio e dando libero sfogo alla propria sfrenata visionarietà, Fellini traccia un affresco in cui si rispecchia celati e distorti sotto le spoglie di una messa in scena fantasmagorica e funerea, i difetti e i peccati della modernità. È un film storico che per il maestro era un film di fantascienza, e qui viene proposto in una bellissima edizione Blu-ray di CG Entertainment con extra decorati da Gideon Bachman provenienti da Cinema Zero di Pordenone. Andiamo a dare invece un'occhiata con Giulio San Giorgio alle segnalazioni dai film in televisione della prossima settimana, cominciando da The Limits of Control. Dicen que todo can- cambia secondo il colore del cristallo con che si mire. Sì, domenica su Re 5 alle 23.05 The Limits of Control di Jim Jarmusch. Un sicario misterioso e solitario vaga per la Spagna, personaggi imperscrutabili danno indicazione sulla missione da portare a termine. Prima di tutto, questo The Limits of Control è un gioco di ruolo, un atto d'amore per il cinema stilizzato ai minimi termini. Ci sono gli attori feticcio di Jarmusch, la loro semplice aura in quadri silenziosi, le pose da cinema classico, da noir, da western, la gioia della caricatura, dell'icona, della parola laconica, una colonna sonora quasi da playlist personale con le passioni del momento, e qui svettano i Boris, la disciplina dei Tai Chi, Samurai di Melville, gli omaggi a Wells, Hitchcock, Karismaki, insomma cinema per la bellezza del gesto, come direbbe il protagonista di Holy Motors, costruito su una trama elementare, letteralmente per quadri, paradossi e calembour, è un bignami d'autore, una parodia di poetica portata all'astrattismo, al ballo di simulacri su una coreografia rarefatta di genere, bellissimo. E per quanto concerne invece la seconda segnalazione, Giulio, andiamo a uno dei film più significativi e anche un po' più da riscoprire di Ermanno Olmi, La Circostanza. Ascoltiamo questa clip, poi Giulio San Giorgio. A tutti i dirigenti, capi settore, capi reparto, capi servizio. In relazione ai nuovi programmi di organizzazione e formazione quadri, le comunichiamo la sua iscrizione al primo seminario residenziale per quadri intermedi. E si svolgerà a Orta Lago Monimo presso l'Hotel San Rocco nel periodo 17-19 settembre. Sempre domenica all'1.05, questa volta su Rai 3, apre la nottata di fuori orario La Circostanza di Ermanno Olmi. Nell'arco di giorni la routine della famiglia Liberti viene scossa, il padre rischia il licenziamento, la madre anaffettiva si attacca a un ragazzo vittima di un incidente, la figlia ha la prima esperienza sessuale, il figlio diventa padre. E tutto questo è la punteggiatura drammatica di una placida disintegrazione d'interno borghese, fatta di tensioni minimali in un cinema ellittico montato in modo frammentato, che all'epoca fu poco commentato, ma oggi ci sembra dialogare perfettamente con un altro grande film che è Teorema di Pasolini, e ci si offre veramente come una delle esperienze più acute, avanguardistiche e avanzate del cinema grandissimo di Ermanno Olmi. E allora l'appuntamento con La Circostanza su Rai 3 alla 1.05 di notte di domenica. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, e alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Vi segnaliamo la premiazione in diretta TV alle 21.10 di lunedì sera, 6 luglio, su Rai Movie dei Nastri d'Argento. Arrivano i premi con questa conduzione live, non ci sarà pubblico, diciamo, ma insomma i protagonisti ci saranno. E quindi Rai Movie 21.10 lunedì ci sono i Nastri d'Argento. E poi, come sempre, l'epilogo della nostra trasmissione è lo svelamento del film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Top Gun, il Top Gun classico con Tom Cruise, in attesa del suo sequel tanti tanti anni dopo con Maverick. Vincitori e recensori la prossima settimana. Grazie per averci seguito, ci sentiamo sabato prossimo. Un saluto da Franco D'Assisti.